sogno spesso di volare, vorrei capire anche il perché. Pagare uno psicanalista, farmi strizzare cuore e testa, ma chi me lo fa fare? Io non ho voglia di guarire. Tu pensa che vantaggio è spiccare un volo dall'asfalto, perché si può cadere in alto da questo strano vecchio e nuovo sogno di volare, respirare libertà e sparire dal soffitto delle mie perplessità. Forse ho voglia di scappare senza muovermi da qua, passando i tetti delle case, a capofitto vado su, come calzini un po' delusi, lasciati soli ad asciugare i miei ricordi appesi. Forse sogno di volare, anche un po' per colpa tua, che ti fa fatica amare, anche il sesso un po' ti annoia. Sogno di ricominciare, ma da dove non lo so. Dal mio primo vero amore, da una rana in un secchiello, o da quel dolore a spillo che ci danno sempre le fotografie, quando si stenta a riconoscersi, adolescenti false antipatie, da innamorati che per lasciarsi poi ci vuole il bisturi. Per questo sogno spesso di volare, cosa vuoi capirne tu, che ti fa fatica amare, non lo farà.